Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. E dopo due settimane in cui avete sentito Eclettica replicata, una settimana era uguale alla precedente, rieccoci qua con 5 giorni di Eclettica fresca fresca, giusto per voi, da parte di Giulio Caperdoni, tutti i giorni della settimana fra le 19 e le 20. Giugno. Viva Vargas! Oggi siamo fuggiti sulle colline, oltraggiati e disgustati dallo sfruttamento a cui è sottoposto il nostro piccolo paese da parte del corrotto regime di Arroyo. Abbiamo inviato Julio a palazzo con la lista delle nostre lamentele e richieste, tutte ben ponderate e ragionevoli, a mio parere. Come volevasi dimostrare, i molti impegni di Arroyo gli hanno impedito di trovare un momento per ricevere il nostro beneamato emissario ribelle. E invece ha scaricato tutta la faccenda sul suo ministro, che ha promesso di prendere la nostra petizione nella dovuta considerazione. Prima, però, ha voluto vedere per quanto tempo Julio sarebbe riuscito a sorridere con la testa immersa nella lava fusa. Dopo alcuni incidenti del genere, abbiamo infine deciso di prendere in mano la situazione sotto la guida illuminata di Emilio Molina Vargas. «Se questo è tradimento», abbiamo gridato i 420, «più ce n'è, meglio è». Sfortunatamente stavo crogiolandomi nella vasca da bagno quando sono stato informato che la polizia intendeva impiccarmi al più presto. Balzando fuori dalla vasca con comprensibile alacrità, ho messo il piede sulla saponetta e sono capitombolato nel patio antistante, attenuando fortunatamente la caduta con i denti davanti che sono schizzati all'intorno come tanti chiclet. Sebbene nudo ed ammaccato, il mio spirito di sopravvivenza mi ha imposto di agire rapidamente e, saltando in sella al mio stallone il diablo, ho lanciato il grido dei ribelli. Il cavallo si è impennato ed io sono scivolato dalla sella finendo a terra e fratturandomi cartilagini minori. Come se questo disastro non fosse stato sufficiente, non avevo fatto in tempo a percorrere 10 metri che mi sono ricordato della stampatrice e, non volendo lasciarmi alle spalle un'arma politica e una prova a carico così efficace, sono ritornato sui miei passi per recuperarla. Con la mia solita fortuna ho trovato che l'aggeggio pesava più di quanto sembrasse e sollevarlo era un lavoro più da paranco che non da un ragazzo di 50 kg. Quando la polizia è arrivata, la mano era impigliata nel meccanismo rotante che mi stava stampando sul dorso ampi brani di Marx. Non chiedetemi come ho fatto a liberarmi e a saltare fuori dalla finestra. Fortunatamente sono riuscito a deludere la polizia e a rifugiarmi nel campo di Vargas. Questo era l'incipit di Viva Vargas, brani tratti dal diario di un rivoluzionario, da Saperla lunga di Woody Allen. Sip the tea, watch your demise. Conti, buonanotte. Oh, buongiorno signora Duca Conti Margherita Serenzara. Come faceva a sapere che era lei? No, non lo sapevo, glielo giuro che era lei. L'ho subito riconosciuta dalla sua nobile voce. Desidera parlare con il suo nobile signor marito? È in riunione permanente da ieri sera nel Gran Consiglio dei 10 assenti. E io ho istruzioni precise di non passare nessuna chiamata. Ma se lei proprio insiste... Ah, lei non insiste, lei ordina proprio. Allora, attenda, le passo il consiglio. Attenda un attimo, signora. Pronto? Qui il consiglio non si sente. È per il conte Serenzara, dalla parte della signora Duca Conte. Attenda. Attenda, signora. Le passo al suo marito, attenda. Pronto? Eccomi qui, cara la mia gelosona. Cosa credevi, che fosse andata a puttane? Semenzara non fa semenze. Semenzara lavora anche la notte per mantenere te e famiglia. Non ha paura di controlli. E ora scusa, scappo via, perché c'è la votazione. Ciao, ciao. Cosa hai detto? Niente, ha solo leggerissimamente accelerato perché doveva scappare a votare. Ha detto di dormire tranquillo. Tranquillo. Va bene, buonanotte, buongiorno. Insomma, arrivederla, signora Duca Conte. Una settimana di eclettica che si apre con suoni nuovi, completamente nuovi o relativamente nuovi, mai ascoltati nelle nostre trasmissioni delle settimane passate oppure ascoltati magari solo con un passaggio, come per esempio Goon Moon, il progetto che vede assieme Jordi White, una volta conosciuto come Twiggy Ramirez dei Marilyn Manson, e Chris Goss dei Masters of Reality. Uscito per IPCAC, noi ci siamo ascoltati il brano dal titolo Apple Pie. Poi invece un'assoluta novità, e lo sarà ancora per molto visto che dovrebbe uscire il 2 di ottobre per Arts and Craft The Most Serene Republic, il secondo album della formazione canadese, il secondo album che probabilmente sarà quello che li farà notare di più, sicuramente di più rispetto al precedente. Penso che anche il pezzo che avete appena ascoltato possa confermare perlomeno a molti di voi quanto appena detto. Suoni nuovi come quelli che ci siamo ascoltati una sola volta nelle scorse settimane qua su Rock FM di Creme, una volta tempo fa, anni fa, passato anche all'interno di Demolition. Solo nella notte con i fari spenti, il mio futuro è pochi passi in avanti. Secondando i miei gusti, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica, per non far più fatica. Senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo vuoto e che mi renda più famoso. Voglio un sesto senso da curare, sviluppare, che riempia questo modo che mi renda più famoso. Giugno. Che pace qui, su queste colline, sotto le stelle. Siamo un gruppo compatto di uomini che operano per un obiettivo comune. Sebbene abbia assicurato la mia partecipazione attiva alla realizzazione delle campagne, Vargas reputa che i miei servigi siano meglio utilizzati in veste di cuoco della compagnia. Non è un lavoro facile con la migraña che c'è in giro, ma qualcuno deve pur farlo, e tutto considerato, il mio primo pasto è stato un grande successo. In effetti, non tutti gli uomini sono completamente favorevoli all'iguana. Tuttavia, Non si può essere schizzinosi. E ad eccezione di una insignificante minoranza di commensali che hanno pregiudizi verso i rettili, la cena è finita senza incidenti. Oggi ho sentito per caso Vargas e mi è sembrato piuttosto ottimista. Ritiene che avremo il controllo della capitale per il mese di dicembre. D'altro canto, suo fratello Luigi, che è un introspettivo di natura, pensa che sia solo una questione di tempo prima di morire di fame. I fratelli Vargas litigano costantemente sulla strategia militare e l'impostazione politica da seguire. Ed è difficile immaginare che questi due capi ribelli fossero, solo la settimana scorsa, lustrascarpe all'Hilton. Intanto, noi attendiamo. Questo era ancora l'incipit di Viva Vargas, da Saperla Lunga, di Woody Allen. We'll be right back. Abbiamo iniziato qua in Eclettica ad apprezzarli con Cold Days from the Birdhouse. Sto parlando degli scozzesi e dell'accento si sente The Twilight Said che vi siete appena ascoltati, invece con un altro brano, And She Would Darken the Memory. Giulio Caperdoni ancora con voi per un'altra mezz'ora, anche dopo quella che sta per finire. Ci sarà la pubblicità nel mezzo e poi ricominceremo con Eclettica. Questa prima parte si chiude con colei che io ho definito, senza sbagliarmi però, babysitter dei figli di Tom Waits. Vi ricordate quando vi ho raccontato la sua storia? Sto parlando di Jessica Hoop. Fantozzi, ragioni Rugo. matricola 7829 Barabis, facevo lo straordinario. Poteva anche avvisarmi, no? Mi scusi, signor Notturno, se l'ho fatta un po' spaventare. Bah. Grazie, buongiorno e buonanotte. Arrivederci, signor Notturno.